Il tempo arriva, parte, lascia il tempo che trova. Ehi, dottor Guillotin, tu e la tua inanizione triste di Francia, la tua macchinazione dissanguante, quel sordido arrotino di teste affranto, liso, in Rue Saint-Denis, in Place Vendôme, a distaccare piccioli da polpe, a delibare il frutto marcio, la spenta passione di carotidi, legamenti crociati. È questa una gazzetta che divulga notiziari di teste. Lesi cerchi incerebrati luminari, paccottiglie da palco. E là, dottore, dov'hai messo la testa?